Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il terrorismo colpisce anche l'Iran, attacco al Parlamento, al mausoleo di Khomeini, almeno 10 morti, oltre 30 feriti, ci sarebbe già una rivendicazione dell'ISIS. Imbarazzo a Londra per il terrorista italo-marocchino fatto passare ai controlli aeroportuali mentre la Gran Bretagna si prepara al voto, tra poche ore alle urne. L'Italia intanto si prepara ad un'estate di grandi eventi, piano di sicurezza per l'estate romana, annuncia la sindaca della capitale Virginia Raggi. Legge elettorale, tensioni tra i gruppi parlamentari, slittano ancora i lavori nel comitato ristretto che se ne occupa, 210 gli emendamenti da votare. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno dalla quale andiamo in onda in diretta video e andiamo in onda in diretta video anche dalla pagina Facebook di Radio 24. In apertura dunque ci occupiamo di Iran e le notizie che arrivano parlano del terrorismo che colpisce anche là. Cristina Carpinelli, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, sono almeno 30 le persone ferite, 10 morti in questo doppio attacco praticamente a sorpresa che ha colpito questa mattina il cuore dell'Iran, quindi la capitale Teheran. Attacco, come dicevi, subito rivendicato dall'ISIS. Il primo attentato è avvenuto nel Parlamento. Un comando ha fatto irruzione nel corso di una seduta di deputati, avrebbe catturato alcuni ostaggi, poco dopo uno di loro si sarebbe fatto saltare in aria all'interno dell'edificio. Sono entrati praticamente indisturbati perché si erano travestiti da donne col chador, portavano armi a esplosivo sotto le pesanti tuniche. Tra le persone finite in ostaggio nelle mani dei terroristi c'erano anche la moglie e la figlia di due parlamentari. Ed è proprio di qualche istante fa un'agenzia che ci dice che si è appena invece concluso appunto questa pagina orrenda, perché uno degli attentatori si sarebbe fatto esplodere, mentre gli altri tre attentatori che tenevano in ostaggio appunto alcuni deputati sarebbero stati uccisi dalla polizia. Dicevamo duplice attentato, l'altro attacco infatti è avvenuto quasi in contemporanea, questa volta al santuario dell'Ayatollah Khomeini a sud della capitale, dove un gruppo armato ha sparato tra la folla dei pellegrini e uno di loro, una donna o forse appunto un terrorista travestito da donna, si è fatto esplodere al momento dell'irruzione. Anche in questo caso si parla di una seconda esplosione, quindi sono tutte notizie che stiamo verificando, sempre questa volta però sulla tomba di Khomeini. È da diversi mesi, dice la polizia iraniana, che vengono sventati diversi attacchi terroristici attribuiti all'ISIS in diverse regioni dell'Iran, in particolare nel sud-ovest, una delle zone abitata prevalentemente da sunniti. Per ora è tutto, la linea può tornare a voi. Grazie dunque a Cristina Carpinelli per questo aggiornamento e per un'analisi in diretta. Abbiamo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno innanzitutto, e che cosa rappresenta l'attacco di questa mattina? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La rivendicazione dell'ISIS degli attentati a Teheran sembra quasi un marchio di fabbrica, una sorta di sanguinoso sigillo a decenni di politica estera dell'Iran e di contrapposizione tra la Repubblica Islamica e un universo sunnita che ha sempre mal sopportato l'esistenza della mezzaluna sciita. L'Iran viene colpito perché è lo Stato del Medio Oriente che da più tempo e con maggiore efficacia combatte contro il jihadismo sunnita. Lo fa in Iraq, a fianco del governo di maggioranza sciita di Baghdad. Lo fa in Siria, sostenendo il regime alawita di Assad e appoggiando in Libano gli Hezbollah, da sempre in lotta con i gruppi radicali sunniti. L'Iran è anche un paese, come si diceva prima con la Carpinelli, che ha confini porosi e vulnerabili, fronteggia l'Afghanistan, dove sono i talebani sono sempre stati nemici a Repubblica Islamica, in Baluchistan ci sono gruppi terroristi sunniti, ci sono delle minoranze arabe sunnite nel Golfo. Ma la domanda che dobbiamo farci è questa, poi alla fine di tutto: come mai noi siamo sempre alleati con le monarchie del Golfo sunnite, che a volte hanno spesso, anzi hanno sostenuto i gruppi jihadisti, e invece siamo sempre avversari della Repubblica Islamica Iraniana? E da questa contraddizione che credo l'Occidente debba prima o poi uscire. Grazie dunque ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questo commento e per questa analisi sulla situazione. A proposito di terrorismo, Londra si prepara alle elezioni di domani in un clima ovviamente di forte tensione politica seguita all'attentato. Si è appreso oggi da indiscrezioni diffuse dalla BBC che Youssef Zaghbal, italo-marocchino coinvolto nell'ultimo attacco, fu lasciato passare al controllo passaporti all'aeroporto londinese di Stansted, malgrado fosse indicato nel sistema di Schengen come un potenziale sospetto sulla base delle segnalazioni delle autorità italiane che erano risalenti al marzo 2016. Proprio sulla base di queste segnalazioni parla il capo della polizia, Franco Gabrielli, che dice: noi abbiamo le carte e la coscienza a posto, comprendiamo le difficoltà e l'affanno di chi lavora in condizioni difficili ed è chiamato a gestire situazioni complesse, riferendosi in questo caso Gabrielli evidentemente agli inquirenti inglesi. Sarebbe scorretto, aggiunge, poco istituzionale da noi, da una posizione di forza, se ci mettessimo a polemizzare con chi è in difficoltà. Ma veniamo al fronte politico. Nella corsa finale verso il voto britannico di domani 8 giugno, Theresa May, premier uscente, e Jeremy Corbyn, aspirante successore da una piattaforma di laburismo radicale, fanno appello al bagaglio ideologico di sempre. La May cavalca la Brexit, si fa campionessa di un'uscita dura dall'Unione che ridarà a suo avviso prosperità e benessere a un regno che, lo ricordiamo, ha fino ad ora in realtà sfruttato al meglio la membership dell'UE e ancora meglio l'esclusione dall'Eurozona. Sulle incognite enormi che attendono il paese, Theresa May glissa. Lo spazio così liberato non è tuttavia occupato da Jeremy Corbyn, che l'Europa non l'ha mai amata molto, e rilancia sui temi a lui più cari: tassazione più elevata per le imprese, per finanziare un'iniezione di denari freschi a un sistema sanitario boccheggiante e a un welfare che a suo avviso i conservatori hanno ridotto ai minimi termini. La battaglia si gioca nei seggi del nord, di stampo laburista, ma dove si concentrano i sostenitori della Brexit più dura, propugnata dai Tory. La signora Premier Theresa May rimane favorita da tutti i sondaggi, ma passata la fase emotivamente più acuta dell'emergenza terrore, la rincorsa di Jeremy Corbyn potrebbe riprendere. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Intanto vengono diffuse in questi minuti dalle agenzie le notizie secondo le quali l'ISIS ha pubblicato attraverso la sua agenzia di stampa Amaq un video con le immagini dell'attacco al Palazzo del Parlamento di Teheran. Le immagini, apparentemente riprese dagli stessi aggressori, mostrano momenti della situazione all'interno dell'edificio, con il corpo senza vita di una persona in un ufficio, un uomo armato che cammina vicino al cadavere. Così la Gran Bretagna, abbiamo sentito poco fa nel servizio Leonardo Maisano, mentre anche la Francia si prepara al voto per le legislative, si ritrova con un'aggressione ad agenti a Notre Dame. Siamo in diretta col corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dopo la giornata di ieri, che dopo la serata di ieri piuttosto, che cosa è avvenuto e come sta reagendo la politica francese? Ma allora, sul fronte delle indagini, le notizie sono sostanzialmente quelle che erano già state anticipate ieri sera. Si è trattato del gesto di un singolo, non è stato un attacco terroristico organizzato. L'assalitore, l'aggressore è un algerino di 40 anni che con un martello ha improvvisamente aggredito una pattuglia di poliziotti sul sagrato di Notre Dame, è stato ferito e ora è in ospedale in attesa di essere interrogato. È stato un attacco fatto con armi rudimentali e se è vero che a casa dell'aggressore è stato recuperato un video nel quale l'algerino prestava giuramento di fedeltà allo Stato Islamico, si tratta di un probabilmente, insomma, di una persona un pochino squilibrata che ha probabilmente trovato nello Stato Islamico un modo, insomma, in qualche modo per sfogare una situazione di instabilità psicologica. Sicuramente è chiaro che questo crea il timore da parte dei, insomma, è evidente che ormai ti accorgi che quando giri per la strada c'è un atteggiamento di timore, di sospetto da parte della gente che si guarda attorno, cosa che una volta non accadeva sul metro, insomma c'è sicuramente un impatto sociale di un certo tipo. Per quanto riguarda la reazione della politica, direi che c'è in qualche modo una coincidenza, nel senso che era già previsto, come annunciato dal neopresidente Emmanuel Macron che sarebbe stato creato presso l'Eliseo una task force di lotta e di coordinamento e di lotta al terrorismo, è stata effettivamente decisa e confermata questa mattina. Da fine giugno presso l'Eliseo e verrà appunto istituito un centro nazionale di coordinamento della lotta al terrorismo, per cercare appunto di coordinare, di gestire meglio in modo più rapido le varie vari fronti, diciamo, di lotta al terrorismo, sì, l'intelligence, la polizia, le forze armate, nel giorno in cui sempre Macron ha ufficializzato questa mattina che il numero dei morti francesi negli attacchi a Londra è salito a 3. All'inizio sembrava fosse uno, in realtà sono 3 su 8 vittime sono di nazionalità francese. Allora io ti ringrazio, grazie dunque a Marco Mussanè anche per questi aggiornamenti da Parigi. Intanto si approntano i piani di sicurezza per un'estate ricca di eventi. I prossimi, quelli che arriveranno a breve, sono gli eventi di Milano e di Monza, e più avanti ci torneremo nel nostro giro per l'Italia, ma ci lavora anche Roma il servizio. Militari in campo per garantire la sicurezza nei prossimi grandi eventi estivi. Arriva dalla ministra della Difesa Pinotti la proposta di estendere la missione Strade Sicure anche agli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, primo fra tutti il concerto di Vasco Rossi il 1° luglio a Modena. Dopo i fatti di Torino, il capo della polizia Gabrielli, dal canto suo, fa sapere che presto verrà diramata una circolare che spieghi agli organizzatori le misure da mettere in campo, ma che permetta anche di individuare le responsabilità nei casi in cui qualcosa non funzioni. A Milano, intanto, sul fronte della sicurezza, l'attenzione in queste ore è puntata sul tradizionale concerto della Filarmonica della Scala che si svolgerà domenica sera in Piazza Duomo. Controlli rafforzati anche a Monza per il Festival Rock che fra il 15 e il 18 giugno richiamerà oltre 150.000 persone. Nella capitale invece ci si prepara agli appuntamenti dell'estate romana. La sindaca Raggi fa sapere che, in attesa delle direttive del Viminale, si sta lavorando ad un piano di sicurezza straordinario sul modello di quello già adottato per il Giubileo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica, alla legge elettorale. Momento per appassionati. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora è il momento degli emendamenti al testo approvato in Commissione Affari Costituzionali. Sono 210 su 300 presentate le proposte di modifica sulle quali si esprimeranno a partire dalle 13.30 i deputati. Le votazioni segrete saranno circa 100. Prima di passare agli emendamenti l'Aula dovrà votare però le tre pregiudiziali di costituzionalità presentate da parte di MDP, Civici e Alternativa Popolare. Forza Italia, Partito Democratico, Lega e 5 Stelle puntano a chiudere il passaggio a Montecitorio entro questa settimana e poi entro l'8 luglio al Senato, con la prospettiva quindi di un voto anticipato a fine settembre. Vincenzo, Senato nel quale non sarà per nulla facile, no? Beh, assolutamente così. Ricordiamo, Simone, che la maggioranza che lega queste quattro forze politiche qui alla Camera al Senato è una maggioranza sicuramente più limitata, ma dicevamo tutto questo in teoria, Simone, questo cronoprogramma da parte delle quattro forze politiche che appoggiano la legge elettorale, perché non è detto che questa intesa regga. Già questa settimana è stato rinviato, infatti questa mattina il cosiddetto gruppo dei 9 che prepara i lavori dell'Aula, perché tra i gruppi che sostengono la legge elettorale non si sarebbe trovato un accordo sugli emendamenti. Sul voto anticipato pesano intanto le parole dell'ex presidente della Repubblica Napolitano, che giudica l'ipotesi abnorme e paradossale, e nervosismo infine tra 5 Stelle e PD. Per Grillo il testo è complicato e Guerini replica: per noi l'accordo è valido se nessuno si sfila. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. Per quanto riguarda l'Italia, oggi l'incontro con i sindacati, sentiamo. È entrata nel vivo la partita sul futuro di Alitalia. È cominciata infatti da parte dei tre commissari straordinari l'esame delle 32 manifestazioni di interesse non vincolanti finora pervenute alla compagnia. Tra i nomi è spuntato anche quello di Ryanair, ma non per l'acquisto dell'intera compagnia, così come quello di Lufthansa, che punterebbe solo ad alcuni asset. Fino a metà giugno verranno esaminati i requisiti di chi si è fatto avanti e scartati chi non li ha. Un'operazione che richiederà una decina di giorni. Seguiranno diversi step, tra cui la valutazione delle offerte vincolanti entro fine fine ottobre e oggi intanto nella sede del Ministero del Lavoro Giuliano Poletti ha convocato i sindacati per un esame sulla procedura di cassa integrazione straordinaria aperta dai commissari, che in questa prima fase riguarda solo 1.300 dipendenti, ma in una seconda fase il numero potrebbe salire. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo a Torino, dove si apre il Salone dell'Auto. A maggio il mercato dell'auto è tornato a correre. In Italia sono state immatricolate 204.113 auto nuove, l'equivalente dell'8,2% rispetto a 12 mesi prima. Una percentuale e una crescita che corrispondono all'andamento del mercato nel corso dei primi 5 mesi dell'anno. La frenata di aprile, determinata dal diverso calendario dei ponti, è quindi già un ricordo. Il record delle vendite è stabilito dalle vetture ibride, più 87%. In questa atmosfera incoraggiante, oggi a Torino prende il via la terza edizione del Salone dell'Auto Parco Valentino. Tra i viali alberati sulle rive del Po espongono 56 case con 26 anteprime nazionali e si festeggiano due compleanni importanti, 70 anni della Ferrari e 70 anni della Polizia Stradale, bolidi rossi e pantere in mostra. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Oh, e domani Effetto Giorno dovrebbe trasmettere in diretta da Torino a partire dalle 13, come sempre, perché siamo presenti in forze appunto per il Salone dell'Auto di Torino. Ci troverete là se ci volete venire a trovare a partire dalle 13, come sempre. Effetto Giorno, c'è il track di Radio 24. Abbiamo qualche problema tecnico in queste ore, ma contiamo per domani evidentemente di risolverlo, altrimenti verrete là e non ci troverete evidentemente. Allora, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo per il nostro giro per l'Italia. Andremo a Milano per sentire come ci si prepara ai prossimi eventi, in vista anche di quello che è successo a Torino sabato sera e delle tensioni che riguardano il terrorismo. Parleremo di una storia, di una piccola storia che arriva da un comune del Savonese che si chiama Bormida, un piccolo comune nel quale si è deciso di dare un incentivo a chi si volesse trasferire là e il sindaco è stato letteralmente sommerso di richieste. Oggi racconta la sua storia sul secolo XIX e abbiamo deciso di ospitarlo. E poi faremo una piccola puntata in Sicilia senza un ospite oggi, ma è dopo il traffico e vi spiego perché. Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. Se volete potete commentare anche là. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato degli attentati in Iran, dell'imbarazzo a Londra per il terrorista italo-marocchino fatto passare i controlli aeroportuali nonostante fosse segnalato dalle autorità italiane, e di Londra che si prepara al voto. Abbiamo parlato della legge elettorale, ci siamo occupati di Alitalia e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. E iniziamo, prima ancora di andare a Milano, fatemi fare una nota. Noi avremmo voluto iniziare il nostro giro per l'Italia oggi parlando di questa vicenda abbastanza assurda. È una vicenda che arriva da Agrigento, dove un uomo è stato condannato per abusivismo per una costruzione nella Valle dei Templi. Come sapete è una vicenda che si trascina da anni. È stato condannato a 20 giorni di carcere e questa persona ha 80 anni. È abbastanza assurdo che una persona di 80 anni vada in carcere, è giusto che l'abusivismo venga punito anche pesantemente, però andiamo a vedere quante volte l'abusivismo non viene punito. Troviamo sui giornali le interviste ad un avvocato ambientalista, si chiama Beppe Arnone, il quale parla di un'ingiustizia perché l'uomo sconterà questa pena, mentre l'ex sindaco di Agrigento ed ex senatore non sconterà, sostiene l'avvocato in queste dichiarazioni, alcuna pena. Decidiamo di andare a cercare questo avvocato, di parlarci, facciamo qualche ricerca su internet e scopriamo che lo stesso avvocato Beppe Arnone, che è uno storico ambientalista della provincia di Agrigento, è al momento sotto processo per estorsione. È una vicenda che l'ha portato a presentarsi in tribunale mettendo prima la toga da avvocato per difendere delle persone, nella stessa mattina poi andare a processo come imputato, denunciato tra l'altro da un'altra collega, la quale a sua volta era stata denunciata da alcuni suoi clienti per irregolarità. Ora, Non me ne vogliano i siciliani, ma ogni volta che andiamo a pescare qualche vicenda siciliana c'è sempre tutta una serie di persone che gioca delle parti in commedia che a volte non riusciamo a comprendere molto chiaramente. Abbiamo appreso anche che i lavori alla villa dell'ex sindaco ed ex senatore Sodano, o meglio della di lui suocera, secondo il Consiglio di Giustizia non sono in realtà abusivi. Ma non solo, ci siamo chiesti: ma che cos'è questo Consiglio di Giustizia? E abbiamo appreso che è il Consiglio di Stato nella versione siciliana, la quale Sicilia è una regione autonoma e quindi ha questo Consiglio di Stato. Ripeto, non ce ne vogliono i siciliani, ma ogni volta che cerchiamo di cavare fuori qualcosa dalla Sicilia, una notizia chiara e nitida, fatichiamo veramente tanto. Ci affidiamo per le spiegazioni a voi, ai nostri tanti ascoltatori siciliani e forse anche a Carmela Rozzo, che è l'assessore alla sicurezza di Milano, che è ragusana, se non sbaglio. Esatto, lei parlava di te. Salve, ricordi Tomasi di Lampedusa. No, guardi, io divento pazzo ogni volta con queste cose, perché anch'io, poi dall'altra parte del vetro c'è Alessandro Marco Tulli, ogni volta ci confrontiamo con questa cosa e non riusciamo a cavarne un ragno da un buco, cioè sarebbe stata netta. Sentiamo l'avvocato Arnone e raccontiamo questa vicenda, invece l'avvocato Arnone, anche lui è sotto processo, nel frattempo fa l'imputato, fa l'avvocato, l'ordine non l'ha sospeso, non ci capiamo più niente. Comunque, assessore Rozza, per parlare con lei dei prossimi eventi che toccano a Milano in questo clima, come dire, un po' di tensione che deriva da una parte da quello che è successo a Torino e l'Andria, hanno appurate tutte le responsabilità, certo, tanto del comune quanto di come la questura e come la prefettura hanno gestito l'ordine pubblico. Dall'altra parte, proprio con l'allarme terrorismo, ci sono una serie di eventi a Milano importanti. Se non sbaglio, addirittura 50.000 persone attese per il concerto della Filarmonica in Piazza Duomo, no? No, in Piazza Duomo per la Filarmonica ne attendiamo 24.000, ne attendiamo 100.000 per Radio Italia settimana prossima, domenica prossima, non questa, il 18. Siamo su Radio 24, però insomma va bene lo stesso. Mi scusi, perché no, ma le pare, ma è giusto così. Concerto, non si preoccupi, è giusto così. Nessun problema. Sono 24.000 e 100.000. Diciamo, abbiamo i concerti a San Siro, certo, perché avremo la stagione dei concerti che finisce il 7 luglio. Allora, domani avete una riunione col prefetto, no? Sì, domani pomeriggio alle 3:30 abbiamo una riunione col prefetto. In questo momento è in corso la riunione tecnica tra le forze dell'ordine in questura con la polizia locale presente. Io preciso che noi da sempre coordiniamo tutti gli eventi con prefettura e questura, perché riteniamo che ogni soggetto poi ha dei compiti da svolgere nel governo delle piazze. Sì. Sì, prego. Però ovviamente ci sono dei compiti che attengono specificatamente a voi. Mi riferisco, per esempio, alle ordinanze che riguardano le bottiglie di vetro, gli alcolici, sì, e il controllo del territorio tramite la polizia municipale. Esatto. Noi, io le faccio l'esempio perché noi stiamo lavorando ampliandola con delle ordinanze che abbiamo fatto anche a Capodanno. Amplieremo probabilmente le aree, dico probabilmente perché la riunione tecnica in questura ha questo aspetto, capire quali sono le aree da comprendere. Adesso mi limito all'esperienza e al punto che sicuramente sarà, noi faremo, abbiamo pronto, poi domani le santificheremo in prefettura, delle ordinanze come Comune di Milano contro la vendita di bottiglie di lattine da asporto, quindi i locali possono nell'area Duomo somministrare da bere dentro i ristoranti, dentro i bar, ma non possono vendere né bottiglie né lattine. Questo riguarda i commercianti. Sì. Poi c'è quella di sicurezza pubblica invece, dove i cittadini non possono arrivare agli eventi né con bottiglie né con lattine né con botti. E faremo dei controlli come abbiamo fatto a Capodanno. Le persone sono state perquisite a uno. A Capodanno avevamo una piazza di circa 30.000 persone e chiunque, nessuno è entrato senza essere prima controllato dalla polizia locale in maniera più generica, e poi dalle forze dell'ordine col metal detector. Quindi controlli serrati per gli eventi, in particolare per Piazza Duomo, e anche un'ordinanza appunto che impedisca la vendita di bottiglie e di lattine. C'è qualche limitazione per gli alcolici anche? Sì, sui superalcolici non potranno essere asportati, non si possono... Il superalcolico può essere consumato solo dentro il locale, fuori superalcolici non ce ne possono essere. La ringrazio, grazie Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Sicuramente su queste vicende torneremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Ci sono altri grandi eventi che si preparano, pensiamo soprattutto al mega concerto di Vasco previsto a Modena, magari proprio a Modena andremo nei prossimi giorni. Daniele Galliano, buongiorno. Buongiorno. È il sindaco di Bormida, è un comune del Savonese. E lei ha scritto, ed è là che andiamo dunque, andiamo in Liguria nella prossima tappa del Giro per l'Italia, lei ha scritto oggi una lettera al quotidiano ligure più importante, che è il Secolo XIX, nella quale racconta la sua esperienza. Il vostro, come tanti paesi, tanti piccoli paesi, è un paese che si sta svuotando, e lei ha deciso di varare un provvedimento che fa sì che nel momento nel quale prendi la residenza a Bormida ottieni 2.000 euro una tantum. E la risposta è stata di che tipo, Galliano? Allora, prima di tutto di chiarire, come ho chiarito in questa lettera che ho mandato al Secolo, la questione dei 2.000 euro, perché è tutto vero quello che è stato detto, è vero degli alloggi che diamo calmerati a 50 euro mensili. I 2.000 euro sono una proposta che ho fatto personalmente alla Regione Liguria, per avere nei nostri piccoli comuni che sono in fase di spopolamento un bonus, una tantum da poter dare a chi viene nei nostri comuni ad acquistare una cascina abbandonata, acquistare un'abitazione e prendere la residenza nel nostro paese. Perciò questa è diciamo la cosa reale che poi è stata avvisata da notizia a notizia. Allora, al di là dei 2.000 euro, al di là dei prezzi calmierati per le case, la cosa impressionante, Galliano, è la risposta che lei ha ricevuto. Sì. No? La risposta è stata alquanto paurosa, perché 28.000 messaggi. Sono arrivati 5.400 mail che ogni giorno ne continuano ad arrivare, non chiaramente a questa portata, ma ne arrivano quasi tutti i giorni, da tutto il mondo, dall'Argentina, dal Brasile, dalla Bolivia, dalla Russia, dall'America, tutto il mondo. E sono stato contattato con 24.000 persone nella mia pagina Facebook. Ecco. La cosa che però, come ho già detto, che mi ha toccato di più sono state le lettere scritte a mano, perché sono arrivato a un centinaio di lettere scritte a mano, persone molto semplici, dignitose, che mi hanno raccontato gli stenti della loro vita e mi hanno chiesto di poterli aiutare ed imprimere una svolta ai loro problemi, ecco. Trasferendosi appunto a Bormida. Può essere questa la soluzione, sindaco, per appunto ripopolare comuni che ormai si stanno spopolando, o si rischiano di creare alla fine dei ghetti di povertà, perché non è che nel momento nel quale li porti a Bormida poi trovano un lavoro? Assolutamente no. Il primo passo è creare posti di lavoro in base al territorio che uno ha, e di conseguenza io tutti quanti quelli che hanno scritto, e rispondiamo alla stessa cosa, che il nostro paese è aperto a tutti quanti, abbiamo questi alloggi da poter dare diciamo in affitto calmerato, che purtroppo non abbiamo lavoro, di conseguenza chi viene nel nostro paese o ha un sostentamento diciamo personale, oppure o si inventa qualche lavoro da potersi portare, ecco, questo senz'altro. La ringrazio, grazie Daniele Galliano, sindaco di Bormida, provincia di Savona. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo per il nostro Giro per l'Italia. Beh, allora vi voglio far sentire qualcosa che riguarda la vicenda di Igor, alias Norbert Fehr, una nostra fissa. Ci sono le dichiarazioni, tra l'altro, dell'altro giorno, del comandante dei carabinieri dell'Emilia Romagna, che dice: beh, alla fine il killer di Budrio è un latitante come ce ne sono tanti. E allora, a come dire, 200.000 euro di spesa al giorno per cercare un latitante come tanti altri, abbastanza curioso. Comunque parleremo di quello, accenneremo a quello, e poi una vicenda che ci porta verso la fine della scuola, guardando già all'inizio dell'anno prossimo, perché un comune del bolognese ha deciso: i genitori non pagano la retta, i bambini non mangeranno e non andranno in autobus. Apriti cielo, nell'autobus che li porta a scuola, apriti cielo, rabbia della CGIL, del Partito Democratico, tra l'altro il sindaco è proprio del PD. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il terrorismo colpisce anche l'Iran, attacco al Parlamento e al mausoleo di Khomeini, almeno 10 morti e oltre 30 feriti, c'è già una rivendicazione dell'ISIS. Imbarazzo intanto a Londra per il terrorista italo-marocchino fatto passare ai controlli aeroportuali, mentre la Gran Bretagna si prepara al voto, tra poche ore le urne. L'Italia intanto si prepara ad un'estate di grandi eventi, avete sentito, piano di sicurezza per l'estate romana, annuncia la sindaca della capitale Virginia Raggi, domani riunione in prefettura a Milano per i prossimi appuntamenti, e sì, sicuramente, lo dico all'ascoltatore che ci scrive, parleremo, lo abbiamo detto tra l'altro, anche del grande concerto di Vasco previsto a Modena. La legge elettorale, sono 210 gli emendamenti da votare, ma slittano ancora i lavori nel comitato ristretto che se ne occupa, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, riprendiamo il nostro giro per l'Italia, e anche se non è venerdì, come sapete ormai il nostro appuntamento tradizionale è il lunedì e il venerdì con le ricerche dell'introvabile Igor il Russo, vero nome Norbert Fehr, beh, ce ne occupiamo molto rapidamente senza sentire il nostro amico Daniele Predieri della Nuova Ferrara per quanto riguarda la giornata di oggi, ma giusto con un paio di notizie e una voce che vi vogliamo far sentire. Allora, come si dice, ci sono le dichiarazioni dell'altro giorno del generale Adolfo Fischione, comandante regionale dei Carabinieri in Emilia Romagna, risponde ai giornalisti a margine delle celebrazioni per la festa dell'arma e dice: il killer di Budrio è un latitante come tanti ce ne sono, dice, noi abbiamo messo le nostre forze in quell'area perché era quella che questo signore, questo killer, ha frequentato per moltissimi anni da quando è arrivato in Italia. Gioco forza, la nostra attenzione deve essere messa in quell'area. Nel frattempo il DNA della madre di Norbert Fehr, prelevato in Serbia, ha confermato che si tratta di lui, e intanto alle amministrative di Budrio, dove Norbert Fehr ha ucciso il barista Davide Fabbri, l'11 giugno gli amici di Fabbri hanno intenzione di non votare il candidato sindaco, ma di scrivere appunto il nome del barista ucciso. Una protesta, quella degli amici, ferma e giustificata contro quella che è diventata quasi una telenovela. Questa mattina l'avvocato Giorgio Bacchelli, che è difensore della famiglia di Fabbri, è stato ospite di 24 Mattino, e dunque sentiamo cosa ha detto. Le forze dell'ordine non demordono, nel senso, continuano queste ricerche, però non lo sono, trovano. Attive, però non è stato trovato, sono passati esattamente dal 1 aprile 2 mesi e qualche giorno. Pare che avrà controlli. O dei complici, o sarà riuscito a fuggire. Ha avuto sicuramente dei complici, anche perché è stato in carcere a Ferrara per parecchi anni per precedenti reati, quindi ha conosciuto dei personaggi in carcere, sì, che l'hanno sicuramente poi aiutato successivamente. Comunque la cosa anche politica, se vogliamo, e la polemica, Oscar, è il fatto che appunto ci sono delle persone pronte a mettere il nome di Davide Fabbri sulla scheda elettorale. Questo è lo spunto più polemico che è venuto fuori da questa iniziativa di questo comitato degli amici del povero Davide Fabbri. Dato che ci sono le elezioni amministrative in vista, noi faremo, pensiamo di fare anche una provocazione ulteriore indicando nella scheda, in vista del nome del candidato formale, ufficiale, candidato Davide Fabbri. Davide Fabbri. Ovviamente saranno schede nulle. Ovviamente. Siamo in linea con Lorenzo Pellegatti, che è il sindaco di San Giovanni in Persiceto, e restiamo dunque in Emilia Romagna con il nostro giro per l'Italia. Lorenzo Pellegatti, che no, mi sono sbagliato prima, ogni tanto qualche qualche caduta c'è, ce lo scrive un'ascoltatrice al 349-238-6666, Pellegati, che non è assolutamente del Partito Democratico. Buongiorno Pellegati, benvenuto. Buongiorno. Allora, sta facendo discutere la sua decisione. L'anno scorso 280 famiglie non hanno pagato i servizi per quanto riguarda la scuola e lei ha deciso che dall'anno prossimo i bambini non avranno accesso alla mensa né al bus che li porta a scuola, ho capito bene? Beh, questa è una semplificazione giornalistica, è una cosa un po' più articolata. No, la nostra posizione è stata molto chiara. No, lo sa Pellegati, noi siamo dei cialtroni, quindi no, insomma. No. È che a volte le notizie devono per forza di cose essere sintetiche perché altrimenti non vengono ascoltate. No, se vuole le faccio una sintesi più articolata. Prego. Basta che sia sintetica nella sua articolazione. Ma come ingegnere di solito non si è abituati i tecnici a essere sintetici. Allora vada. Allora, esattamente, noi abbiamo modificato il regolamento per i servizi, esattamente i servizi scolastici. Il regolamento prevede che se un ragazzo, se un genitore non paga le rette, in questo caso per i servizi scolastici, non è che vengono interrotti i servizi, ma si completano nell'arco dell'anno, quindi non è che il bimbo rimane senza alimento durante l'anno. A termine dell'anno scolastico si va a capire, chiaramente non è che non aspettiamo a termine dell'anno scolastico, ci saranno comunque i servizi che si attiveranno per capire perché non è stato pagato, mail, comunicazione, tutti i sistemi che abbiamo adesso di comunicazione verranno intrapresi. A termine dell'anno scolastico, diciamo, se non si completa e comunque non vengono pagate le rette, a questo punto si cerca di capire perché non è stato pagata, quindi o intervengono i servizi sociali, quindi cerchiamo di capire se la situazione di quel familiare... Cioè, se effettivamente non hanno i soldi per pagare i servizi scolastici... Andiamo a capire, se invece i soldi li hanno e li stanno in altre parti, interviamo il servizio. Perché il problema non è l'alimento, il problema è quella famiglia lì. Perdoni, se un genitore utilizza i soldi per i fatti suoi e non li utilizza per il figlio, c'è qualcosa che non va. E quindi bisogna capire queste cose qua. Pellegati, qualcuno dice però così andate a rifarvi sulla pelle dei bambini. Ma no. Se c'è un problema serio, metti che il genitore ha perso il lavoro, la famiglia si è in difficoltà, eccetera. Se sono i servizi sociali da noi funzionano, cerchiamo di farle funzionare, sicuramente funzionano, e si troverà una soluzione, una rettezzazione, una riduzione, tutto quello che possiamo fare e mettere in campo. Non siamo così proprio cinici a tal punto. Non è che ve la pigliate quei bambini. Non far pagare, cioè quelli che non pagano per fare i furbetti, perché tanto il comune non può far nulla e via, e non si continua a non pagare. Noi abbiamo tanti genitori invece che se fanno in quattro, me lo dicono, pur di pagare le rette, si privano di altre cose, e il vicino di casa magari si va a fare, non so, trattamenti particolari all'appello, questo o quell'altro, a discapito delle rette, e questo non va bene. 280 le famiglie che non hanno pagato nel 2015. In realtà io parlo di 162.000 euro che non arrivano alle casse del comune. 162.000 euro che le mancano per tutto questo. La ringrazio. Grazie. Grazie Lorenzo Pellegati, sindaco di San Giovanni in Persiceto, per essere stato con noi. Qualche ascoltatore ci scrive: sì, è un fenomeno, si verifica spesso. È vero, in effetti l'abbiamo trattato spesso anche nel corso dell'anno. A chiudere, parliamo delle giornate della cooperazione e lo sviluppo in corso a Bruxelles. L'Europa studia progetti imprenditoriali di piccole e medie dimensioni che contribuiscano allo sviluppo seguendo un modello della cooperazione italiana. Ci spiega tutto la direttrice dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, Laura Frigenti. E visto che siamo in ritardo, direi che dopo aver sentito Frigenti possiamo andare direttamente sul traffico. Platero, e ci risentiamo alla fine per i saluti. Speriamo di avere molti imprenditori italiani, soprattutto imprenditori giovani, imprenditori sociali, imprenditori che sono interessati alle tematiche dello sviluppo, ai quali presenteremo come accedere al bando e possibilmente, potenzialmente, ai finanziamenti che lo stesso poi potrà produrre. L'Unione Europea ovviamente è per noi sempre un benchmark di riferimento, perché l'Italia è particolarmente attiva su tante tematiche nel quadro proprio della politica di sviluppo che incentra intorno a Bruxelles. Su molti temi siamo molto contenti come agenzia di essere stati propositivi e quindi, voglio dire così, di aver presentato e prodotto delle idee. Io credo che questo tema dell'inclusione dell'impresa sociale, questo è un tema sul quale l'Italia sicuramente è all'avanguardia rispetto ad altri paesi membri dell'Unione Europea e alle attività dell'Unione stessa, e quindi ci fa molto piacere così presentare queste nostre idee innovative e anche vedere che riscontro hanno da parte degli altri.